che era bello il mondo da bambino. La vita è una favola, un gioco a nascondino. Ridevi, gridavi, davi calcio a un pallone, e fuori la gente ti urlava campione. Ma il tempo correndo poi porta tutto via, ed è il tuo passato solo una fotografia, impressa in un album che tieni in un cassetto, e tutto scorre di un sto in silenzio. Sono solo ricordi, quelli che tieni tu, quelli che porti dentro e che non lasci più. E ti resta i ricordi di quel tempo passato, scritto dentro ad un libro, non sarà cancellato. Ricordo l'amore quando ero ragazzino, le nostre corse in bicicletta e motorino. Ci stringevamo, io sentivo il tuo calore, guardavo i tuoi occhi e mi batteva forte il cuore. E come il tempo fugge anche tu sei andata via, lasciando il mio motore sempre spento in avaria. E pensa che di te io immaginavo il solo amore, ma se ci penso ancora che dolore. Sono solo ricordi, quelli che tieni tu, quelli che porti dentro e che non lasci più. E ti resta i ricordi di quel tempo passato, scritto dentro ad un libro, non sarà cancellato. Sarai come un motore quando corre contro vento. Ricordi del passato, cosa farne dici tu, ma intanto loro restano, vai via solo tu. E pensa che ho provato a fare a pugni col passato, ma sono stato vinto, son caduto sul selciato. E fu da quella volta che non mi hai abbandonato, ed io quello che è stato non l'ho mai dimenticato. Sono solo ricordi, quelli che tieni tu, quelli che porti dentro e che non lasci più. E ti resta i ricordi di quel tempo passato, scritto dentro ad un libro, non sarà cancellato. Non sarà cancellato.